fare tutta la... Ristoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Hanno fatto anche il conto alla rovescia, come delle vere professioniste. Siamo in onda, siete in diretta con Ristoradio Convento, ma non solo, perché siamo anche in replica per tutta la settimana, per tutte le settimane, per tutti i giorni dell'anno. Quindi oggi potrebbe essere un giugno qualsiasi, un novembre piovoso, ma anche maggio non lo è da meno. Insomma, potrebbe essere un qualsiasi giorno, risentendo il podcast e le repliche della nostra puntata. Potrete risentire e rivedere anche questa fantastica ragazza, rivederla magari anche bella, perché dicono che è la sposa più bella, le amiche me l'hanno detto. Anche gli uomini. Diciamo che con gli uomini è vinta facile, Se lo dicono, anche le donne, rafforza di più la tesi. Quindi una ragazza fantastica che adesso andiamo a conoscere e diamo quindi il benvenuto a Daniela. Ciao, se riesci ad avvicinarti al microfono così ti sentiamo. Vai, avvicinati tu. Ciao. Fisicamente. Ciao Daniela. Allora Daniela, intanto da dove vieni? Da Bergamo. Da Bergamo. Io ho già anticipato che ti sposi, però mi sembra giusto che ci racconti tu quando e con chi. Il 14 giugno con Roberto. 14 giugno con Roberto. Però codice fiscale. Cos'è? Perquis, pure il cognome. Tutto ce l'ho. Tutto, ma il codice fiscale IBAN è completa. Daniela è una ragazza che dà informazioni complete, mi sembra giusto. Però dicevo, un matrimonio solitamente è una festa e sicuramente lo sarà. Potrebbe anche diventare un'agenzia matrimoniale per cuori solitari, perché parlavano fuori onda che stanno cercando di piazzare, Simone e la mia collega. Stanno cercando di piazzare un attimino delle ragazze che ancora non sono accasate, quindi bisogna un attimino riparare. Potrebbe essere la sera giusta, chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo. A proposito di ragazze amiche, Daniela, mi vuoi raccontare chi è qui con te questa sera? Tutte le mie amiche. Dai, presentacele. Mia cognata Isa, la mia testimone Veri, che di cui stiamo cercando il fidanzato. Perfetto. Sottolineiamo. Esatto. Le mie cugine Sara e Alessia, la mia amica Eli, la mia amica Mari, la mia collega Laura, di cui stiamo cercando il fidanzato. Molto bene. Allora io direi, Daniela, facciamo un po', come dire, fai un po' il faccio l'anima sua, l'Alberto Castagne della situazione. Secondo te che ragazzo potrebbe andare bene per le tue, per la tua testimone e per la tua collega? Vai, fai uno spottone. Allora, fisicato, bello. La barba, morro, gli occhi scuri. Esatto. Ma sa più lei di te, è preparatissimo. Bene, no, parla lei. Simpatico, devi farle divertire, giusto? Deve amare gli animali, soprattutto i cani e i cavalli. No, non è un particolare da poco. È troppo sportivo. Esatto. Però in palestra sì. Però deve essere fisicato, quindi deve andare in palestra. Sì? Serio? Sì? Beh, insomma, così, una roba da nulla. Sai che forse capisco perché sono ancora single. Ho fatto un paio di conti, diciamo che hanno grosse richieste. No, però vedrai che ci riusciranno prima o poi. Dici? Quanti anni ha? 15. Sì, eh. No, secondo me. Questo ne ha 15. No, scusa, non ne ha 15, ne ha 19. Ne ha 19. Che festeggiano? 2000, quindi. Ah, 2000. Yes. Quindi 2019. Che ne sanno? A proposito, il tuo Roberto invece com'è? Bravo, senti che dolcezza, senti che dolcezza. È bravo, come mai? Cioè, cosa lo rende bravo? Ha detto che ti ama, quello che ti fa ridere. Chi è che ti ama? Oh. Quello del 2000, ragazzi. Chi è che ama? Oh. Chi è che ama? Quello del 2000. A lei, alla Daniela. Ha detto che l'ama. Stai attento, è quello che dici. L'ho conquistato con tanto. Sì, addirittura, bravo. Ma torniamo a Roberto, che è bravo. Ti fa ridere? Sì. E poi? È bello. E poi? Va. Vabbè, basta dire che. È tipo una banconota da 500 euro, cioè, è rarissima, la vedi una volta passare shum, e poi se n'è andata e tu l'hai presa al volo e te la sei messa in tasca. Quanti anni fa? 12. 12, beh, insomma, pochini, giusto, direi che. È il commento che perfettamente riassume la situazione. Ci hai visto? Sì? Subito. Preso. E come hai fatto? Raccontaci un po' com'è andata. Chi è? Centro ricreativo. Ah, ok. Vabbè, cos'è? La parrocchia. La parrocchia. cioè voi vi siete conosciuti in insomma alle attività estive della parrocchia e vi siete piaciuti? 17 anni. Ah, 17, quindi già anche un po' maturi. E come è andato l'incontro? Cioè cosa vi ha uniti? Cioè la bandiera, stavate giocando a bandiera, cosa? Vi siete rubati la bandiera a vicenda? Palla guerra. Ah, no, nemmeno se lo ricorda. Era troppo così concentrata sul gioco che non si ricorda neanche come sono incontrati. Beh, cosa vi siete detti almeno? Non so, in questi 12 anni una parola ve la sarete detta o parlate così a gesti? Siamo, ce lo siamo detto. Ah sì, subito. Rubatela. Esatto, subito. Rubata la bandiera, ti amo. Esatto. Così. Fate il gioco dei mimi a casa. Sì? Forti, sono forti? Chi è più forte? Bravi. Siete bravi? Il gioco dei mimi. Bene, bene, quindi vedi che a volte il cre, cos'è cre, no? Cre. Cre, galeotto e... Galeotto full cre. Vedi, anche le ragazze, devi dire, che devono frequentare di più i centri estivi, la parrocchia. Certo. Perché, cioè... Lei che è atea, quell'altra che boh. Ah, niente. Vabbè, possono fare un giro, non hanno niente da fare, vanno a fare un giro e si fingono. Perché tutti sono troppo convinti che si cucchi in discoteca, ma non è vero. È la parrocchia al posto giusto. Per discoteche anni 90. Perché comunque la parrocchia ti fa trovare una persona affidabile, seria, perché se è lì non è un e vedi, non è un... discoteca in oratorio, perché... Ah sì, faceva la discoteca, ma no, truzza. Sì, e il prete lo sapeva o... Sì, faceva... organizzava lui, avantissimo. E che musica passava la discoteca? Ah, ok, no, pensavo suonassero solo le canzoni di chiesa con la cassa in quattro. Ti ringrazio, boom, boom, boom, boom. Satane, quella spacca, bello, no? Mi piace. No, e poi, cioè, adesso, tipo David Guetta, che ci sta ascoltando sicuramente, ha già preso come spunto e sicuramente farà Osanna, Osanna, Cristo Signor. Con la cassa in quattro. Oh, bravo, David, se ci stai ascoltando, prende i diritti la nostra Daniela, che deve pagarsi il matrimonio, quindi insomma un attimino, un piccolo finanziamento non va male. Viaggi ne farete, luna di miele, qualcosa? Sì, andiamo alle Seychelles. Attivo, Seychelles, non sono ancora diventate 7, sono rimaste 6 Seychelles, non l'hanno ancora aumentato. Peggio dalla mia battuta questa. Lo so, ma alle 2.40 questo da forza. È perché noi puntiamo sempre al pubblico che guida, no? Così adesso hanno sbandato un attimo e hanno recuperato la macchina. Ma è un viaggio che sognavate? No, in realtà volevamo andare alle Hawaii, solo che ci hanno smontato. È sbagliato isola? Ok. Ok, non credo aveste girato il mappamondo e tu. Beh, comunque, bello uguale. Relax, vacanza relax. Ok, allora Daniela, vuoi dire qualcosa, mandare un messaggio a loro e mandare un messaggio a Roberto? Non so, fai tu. Hai un microfono se vuoi dirci qualcosa. Va bene, grazie alle mie amiche. Vai, più vicino che ci sentiamo. Questo stupendo addio al nubilato. Con parole tue sempre, Usa... No, ma sai perché, come diceva lei, è abituata a parlare col mimo, no? Quindi quando la fai parlare deve ricordarsi cos'è consonante e cos'è vocale, deve metterle insieme un po' così. Ringrazio tutte loro, una stupenda serata, grazie mille di esserci. Bello, è toccante, vedi che comunque quando c'è dà contenuto a quello che dici. Esatto. Vuoi dire qualcosa anche Roberto? Ti amo. Beh, vedi. È così, concisa, efficace, ma ricca di significato. Ok, grazie mille. Allora, ragazzi, volete dire qualcosa a Daniela? No, abbiamo smesso. Ah, basta. Ti vogliamo bene. Siete state andando in cura per questo? Ok. Vabbè, per empatia, esatto, parlate anche voi. Beh, allora facciamo così, è un momento molto radiofonico. Ditele qualcosa a Mimo, vai. Anch'io. No, non potevi rispondere anch'io. È così. Perfetto. Bene. La cosa... È un assassino. Sì, beh, perché... Ma così lei com'è. Esatto. Che il momento più bello e più efficace in radio è non riempire i silenzi. E giustamente ne abbiamo fatto una cosa molto molto innovativa. Intanto continuo a parlare io perché Daniela ha perso il velo. E quindi intanto, come dire, tappo il buco. che non sia, come dire, malaugurante per il giorno giusto. Sarebbe bello che tu arrivassi ti cade il velo e lei arriva e te lo mette a posto. Vabbè, bello, dai, un po' di brivido, no? Un po' di brivido. Vedi, un po' di generale. Ah, dici, si sta allenando a non perdere. Sì, sì, ma poi se lo inchioda col trapano, cioè proprio se lo mette così non può, non può cadere, non può cadere. Ok, ok. Allora, grazie mille ragazze per essere state con noi, vi auguriamo una buona fine serata e soprattutto tanti auguri alla nostra sposa Daniela. Grazie! Ciao!